24 Mattino. Mi fa piacere che il Tribunale abbia accolto la tesi che io ho espresso dal primo momento, e cioè che non c'era nessuna intenzione di offendere la religione islamica, non c'era nessuna intenzione di incitare all'odio religioso, semplicemente c'era una constatazione che degli assassini che uccidono dei giovani a sangue freddo per la sua colpa di aver ascoltato della musica sono dei bastardi, e io penso di avere il diritto di poterli chiamare bastardi. Così Maurizio Belpietro per una sentenza che sicuramente farà discutere, che chiude una lunga querelle. Quel titolo dopo le stragi, bastardi islamici, adesso per la giustizia è legittimo. E tante cose di cui discutere oggi, entrando con la lente in dettaglio, ma come al solito comincio da una storia, da un problema. E sì, sono le nuove norme sull'assenteismo. E attenzione, nel contratto degli statali, ce lo racconta Mario Senzini sul Corriere della Sera, c'è una disposizione shock. Paghe ridotte a tutti quelli dell'ufficio in cui c'è un assenteista. Si tratta cioè dell'azzeramento del premio. Qualora in un ufficio pubblico ci fosse uno che non si presenta al lavoro, esce, timbra il cartellino, allora se c'è questo fenomeno d'assenteismo di uno, si azzerano i premi di produzione a tutti gli altri intorno a lui. È ovvio che questo provvedimento pone almeno due domande che giro subito come, diciamo, titolo di questa rassegna. Allora c'è una responsabilità sociale. Quali strumenti hanno i colleghi per impedire che il lazzarone non si presenti al lavoro? E due, se uno fosse un dirigente, forse potrebbe sanzionarlo, ma se è un collega, come fa? Domande che vi consegno oggi, e sono sicuro che questo titolo che c'è sulla pagina del Corriere della Sera creerà sicuramente un grande dibattito. Ma allora comincio proprio al Corriere, la rassegna dei titoli di prima. Questo non era il titolo di apertura. Etruria, l'affondo di Padoan, è il titolo del Corriere. Non autorizzai altri ministri a parlare delle banche. Renzi, abbiamo già chiarito tutto. La risposta sui colloqui di Boschi e Del Rio, oggi l'audizione del governatore Visco. Questo è il titolo del Corriere della Sera, apertura molto netta, e poi c'è un editoriale sui pentiti dell'utopia digitale firmato da Massimo Gaggi. Avvenire, la surroga offende la dignità della donna. Sentenza della Consulta ha confermato il divieto, il fatto, la Corte Costituzionale ribadisce le disposizioni della legge 40, al centro della decisione si deve però sempre porre l'interesse del minore. E questa è sicuramente un'apertura diversa di Avvenire, che però pone sempre, come sappiamo, il tema della famiglia e delle leggi che regolano il diritto di famiglia. E il Tempo, Tugliani paga ed esce di cella, adesso è libero a Dubai, casa di Monte Carlo, il cognato di Fini rilasciato su cauzione, e l'Italia a rischio beffa, secondo il quotidiano diretto da Gianmarco Chiocci, gli Emirati non sono obbligati infatti ad estradarlo. C'è però di apertura il colonnino Aurelia Fatale, la notizia è su tutti i giornali, Matteoli muore in un incidente, ne abbiamo parlato, ne parleremo ancora, e il fondo è l'ultima telefonata di Maurizio Gasparri, si è sentito alle 10 con il suo vecchio compagno di partito poco prima che morisse in quello schianto. Il Giornale, Di Maio, ladro di pensioni e il fondo di Sallusti, che in realtà oggi è proprio di apertura sopra qualunque altro titolo. E poi c'è il Cuore, una fotona centrale con Matteoli sulla poltrona di ministro. Matteoli morto in un incidente, ciao Altero, è morto ieri a Capalbio in un tremendo incidente frontale sulla via Aurelia. Altero Matteoli, 77 anni, più volte ministro per i trasporti. Lo ripeto perché è il grande paradosso che rende questa notizia di cronaca, oltre che umanamente, diciamo, importante e politicamente pregnante. Era il ministro che voleva quell'autostrada che poi non si è mai fatta, nell'ultima istanza in realtà perché mancavano i soldi. Il Messaggero, nomine, prove di larghe intese. Sono belli i giornali che oggi, vedete, hanno tutti aperture diverse su notizie diverse, con alcune dominanti, ma ci consentono di raccontare diverse cose. Il governo avvia il tavolo per la successione a Vegas in Consob, consultazioni con Forza Italia. Manovra dal 2019, web tax al 3%, ma non sarà applicata al commercio elettronico. più sgravi sui bebè. La foto centrale, Trump alza la voce, Cina e Russia sono nemici. E il Fatto Quotidiano, il professore Copione vigilerà sull'università, nuovo presidente dell'agenzia con tema irregolare, si parla di Miccoli, Paolo Miccoli, è entrato nell'organo ministeriale. Poi Bellomo indagato, sexy, corsi e minacce, lesioni ed estorsione. Bellomo, ricordate, il consigliere di Stato che seguiva quei corsi per entrare di preparazione al concorso di magistrato. Una scoperta al giorno è il titolo centrale, eppure Padoan in guai alla Boschi, mistero sul ricatto a Unicredit. Poi proveremo a spiegare perché. E c'è la vignetta di Vauro, salme italiane, è tornato il Rennano, un altro, e vicino c'è Berlusconi con la corona, ma in realtà si parla di Vittorio Emanuele III. La Stampa, il Movimento 5 Stelle apre al PD, vedete un'altra apertura diversa su un retroscena, in realtà lo leggeremo fra poco, si tratta di una fonte, non certo di Maio, ma solo senza Renzi, questa è l'interpretazione del quotidiano torinese. La foto centrale della Stampa, la leggerò con attenzione nella parte, nella nostra rubrica dei soldi, il paradosso Borsalino fa affari ma fallisce. È una sentenza del tribunale che lo impone. Dio benedica le banche, e il fondo di Cerasa sul Foglio. Più c'è un corsivo divertente di Ferrara contro Piketty, il grande intellettuale francese che ha teorizzato l'aumento della ricchezza dei pochi. La Verità, soldi in nero al padre Laboschi, si tratta di un'evasione fiscale scoperta dalla Guardia di Finanza, ma l'Agenzia delle Entrate lo salva. Padoan scarica l'ex ministro, mai autorizzata, la Boschi, figlia in questo caso, a parlare di banche, e oggi tocca a Visco. Il fondo di Maurizio Belpietro, il suo conflitto di interessi porta al suicidio di Renzi. Libero, e Libero, bastardi islamici si può dire. Il giudice assolve il nostro quotidiano per il titolo, titolo che fu fatto quando Belpietro era direttore, per questo avete sentito la sua voce. Qui però il fondo è firmato da Renato Farina. Tremonti, premier papalino, meglio il niente piuttosto che un Gentiloni bis. E poi di spalla un Elzevido, chiamiamolo così, di Vittorio Feltri, che ricorda, e per questo è importante, Brera, il più grande cronista sportivo, Gianni Brera, nel 25esimo della morte, era così bravo che non ha mai avuto un successo degno. Poi di taglio, Di Maio contro l'euro, preferisce la poltrona. Il Manifesto, il quotidiano comunista, l'ultradestra di Curzio giura fra i fischi, questo è il titolo di apertura, e poi c'è un fogliettone, un confotona su Etruria, conti aperti, ovviamente sono quelli che riguardano le ultime audizioni in arrivo. Il Sole 24 Ore, il Monte dei Paschi torna Banca di Stato, Stefania Bariatti nominata alla presidenza. Il fondo, la norma salva TAP e l'incubo della ragione, lo leggerò, di Paolo Pombeni, sulle ipocrisie istituzionali. La spalla, Padoan, mai autorizzato nessun ministro a occuparsi di Etruria. E la nota di Lina Palmerini parte dalla prima, oggi il Colle guarda al voto, basta risse. Voglio leggervi ovviamente ancora alcune notizie importanti. Repubblica, la prima web tax, banche, Padoan, gelo Laboschi, sono due notizie diverse unite in un solo titolo. Poi c'è il corsivo su Di Maio e le piroette sull'euro. E poi abbiamo gli sportivi. Doppia Roma, è il titolo del Corriere dello Sport di questa mattina, e la notizia che la Lazio blinda i suoi gioielli. Ma mi interessa ovviamente notizia che c'è sia sul Corriere, ma soprattutto sul titolo della Gazzetta dello Sport. In prima pagina il Milan in ritiro senza cena, il castigo di Natale, e c'è una foto di Gattuso mesto e arrabbiato. Mattino. abbiamo avuto un problema alla centralina della caldaia. La Ferrari alla caldaia Marchionne? La caldaia Marchionne? No, ma è piccolina. Sta nel cruscotto. E va bene, era il Marchionne di Crozza con la centralina e la caldaia. Però sul Corriere dello Sport c'è un colloquio, due pagine, 40 e 41, quindi un colloquio intervista di Fulvio Soms, inviato a Maranello, in cui Marchionne dà una notizia, secondo me, è abbastanza pesante. Rifondiamo la Formula 1, cancelliamo molte delle regole esistenti, diamo spazio ai progettisti, altrimenti, sentite, ad andarcene ci mettiamo un minuto. E beh, insomma, arriva l'Alfa Romeo, se ne potrebbe andare la Ferrari, non mi pare una notiziola da poco. Va bene, questo solo come prologo, dai, come biscottino. Dicevo che ho letto la notizia delle paghe ridotte e voglio leggere oggi il corsivo delizioso di Gramellini sull'ennesima follia dei social. Anime nere si intitola, e c'è una foto che vi devo spiegare, quella del campione dell'Atletico Madrid Antoine Griezmann, appassionato degli Harlem Globetrotters. Che cosa fa? Mette sul web una foto in cui lui c'ha il parruccone tipo appunto afroamericano di Harlem e la faccia dipinta di nero, più chiaramente la canotta della sua squadra preferita. Ebbene, che succede? Ce lo racconta Gramellini. Viene travolto dagli insulti, accusato di razzismo sulla rete. Il vangelo isterico del politicamente corretto, sto leggendo Gramellini dal Corriere della Sera, proibisce di fare il verso a qualsiasi gruppo sociale che sia stato o sia ancora oggetto di discriminazioni. E poiché in questo mondo ipersensibile, per nulla autoironico, tutti, anche i parcheggiatori abusivi di Amalfi e le speculatrici di grano e l'Oklahoma, si sentono parte di una minoranza discriminata, diventa praticamente impossibile dire o fare qualsiasi cosa senza mancare di rispetto a qualcuno. Scrive Gramellini: finché le reazioni umane erano basate sulla conoscenza diretta, l'indignazione rimaneva circoscritta al proprio cortile. Ma da quando il mondo è una piazza e i rapporti face to face hanno ceduto il passo a quelli face to Facebook, ogni fiocco di neve diventa immediatamente valanga e il provocatore è costretto, come Griezmann, a profondersi in scuse umilianti pur di scampare al linciaggio del web. Intanto la povertà aumenta, il pianeta si scalda, ma, scrive Gramellini, i custodi del sacro fuoco della suscettibilità sono già alla ricerca della prossima stupidaggine per cui indignarsi. Allora, merita la prima pagina non solo del Corriere ma della nostra rassegna questa storia, perché è il paradosso di una follia. Cioè, uno fa uno scherzo con la maglia della squadra del cuore, il parruccone da afroamericano di Harlem, e anziché capire che allude ai suoi giocatori come se avesse messo, che ne so, le treccine alla Gullit, vi ricordate i berrettini meravigliosi? Mandatemene uno se ce l'avete con la frontiera del Milan e sotto i riccioli alla Gullit, e diventa razzista. Siamo alla follia. Va bene, allora Matteoli ce lo racconta a pagina 9, questo incidente drammatico, lo schianto di Capalbio, Tommaso l'Abate, con un pezzo a metà fra la biografia e la ricostruzione. Gli è stato fatale un tratto di strada statale che, nei suoi piani di ministro dell'ambiente e soprattutto dei trasporti, doveva essere superato da un'autostrada. L'ha ucciso quella stessa strada su cui anni fa aveva rischiato la vita, al punto che, ricorda oggi Maurizio Bianconi, parlamentare e suo corregionale che l'ha incrociato per una vita intera dal Movimento Sociale al PDL passando per AN, quella volta chiesero a tutti i suoi colleghi e amici il gruppo sanguigno, perché Altero stava talmente vicino alla morte che aveva bisogno di trasfusioni rapidissime. La morte proprio là, anni dopo, è arrivata. Il pezzo di L'Abate prosegue così: un incidente stradale nei pressi di Capalbio si è portato via ieri pomeriggio Altero Matteoli, senatore di Forza Italia, sempre ministro nel governo Berlusconi, parlamentare per tutte le legislature che vanno dall'83 a quella che si conclude oggi, prima con l'MSI, poi con AN, quindi col PDL, oggi in Forza Italia. Quel pezzo di Aurelia, scrive L'Abate, dove ieri pomeriggio ha perso la vita dopo lo scontro frontale fra la sua BMW e una Nissan, era per lui un cruccio, di quei crucci che a conti fatti saranno trasformarsi in una maledizione. Quella strada non va bene, diceva sempre agli amici dopo essere sopravvissuto al primo incidente. Ci sono dei pericolosissimi incroci a raso, spiegava da ministro. E per questo sosteneva la costruzione dell'autostrada tirrenica Livorno-Civitavecchia che doveva passare proprio da Capalbio e incrociava le lame e la dialettica con il corposo gruppo di intellettuali ambientalisti che hanno sempre osteggiato quell'infrastruttura. Ebbene, questa è la storia. Chi vuole la ripercorre in integrale, ma direi che questo racconto di L'Abate dà la dimensione come qui tragedia personale e messaggio politico si leghino strettamente. Allora, su Repubblica, pagina 8, volevo leggere questa vicenda di Di Maio, perché fra l'altro c'ero ieri all'Aria che tira quando è arrivato lui, è stato bombardato, come fanno bene i giornalisti a fare, da Mirta Merlino. E lui ha detto questa frase chiave. Allora, ne abbiamo discusso sentendo l'audio e ora leggiamo il pezzo di Carmelo Lo Papa su Repubblica, pagina 8. È la più recente, ma non sarà certo l'ultima sortita del Movimento 5 Stelle Di Maio sulla possibilità di un'uscita all'euro. La via più breve per far man bassa i facili consensi a destra, pur edulcorando puntualmente l'ipotesi del referendum come estrema ratio. La manovra è partita da un pezzo, scrive Lo Papa, e il tema Europa con moneta annessa farà capolino per tutti i prossimi 3 mesi di campagna elettorale. Sebbene tutti, anche i leader delle forze più antieuropeiste, abbiano realizzato che una via di fuga all'Unione in realtà non esiste, è bastato assistere alla trattativa chiusa dal Regno Unito che dovrà rendere Bruxelles qualcosa come 50-55 miliardi di euro. E va bene, la vignetta di LK, tranquilli, con i 5 Stelle l'Italia in mani sicure, Di Maio per l'uscita dall'euro, ma solo di mattina. E torniamo al pezzo di Lo Papa, ieri la miccia l'ha riaccesa il candidato premier Di Maio. Se dovesse arrivare al referendum, che però considero un'estrema razio, è chiaro che voterei per l'uscita, significherebbe che l'Europa non ci ha ascoltato. Così dice in TV all'Aria che tira, scrive Lo Papa, lo stop and go sull'euro andrà avanti per anni. Io però non credo che sia una gaffe, nel senso che stiamo assistendo, ne abbiamo parlato con Berlusconi e la famosa uscita su Gentiloni, stiamo assistendo a dei submessaggi, cioè si dà un messaggio principale e si dà anche una subordinata. Quindi secondo me Di Maio vuole dire veramente ai suoi elettori, non è che gli è sfuggito, che se non si riesce a negoziare e prendiamo per vero quello che uno dice, si può anche uscire dall'euro. Allora, mi sembra che sul Fatto ci sia una cosa interessante sull'audizione che si prepara di Ghizzoni, cioè torna un tema che spiegava perché era così delicato quel colloquio di cui parlava De Bortoli nel suo libro fra la Boschi e l'ex di Unicredit, e ce lo spiega Carlo Di Foggia sulla pagina 3 del Fatto, facendo parlare l'audizione di Padoan interrogato da Augello, senatore del gruppo di Quagliariello. Come mai abbiamo avuto una serie di richieste del Parlamento del relatore sui provvedimenti che hanno visto il suo ministero concorde, ma che poi sono stati tutti bloccati a Palazzo Chigi? Questo vale per le detrazioni, ma non solo. Cioè, il pezzo è complesso, riassumo il senso. Le detrazioni erano delle possibilità delle banche di usare i crediti d'imposta generati dalle svalutazioni. Questo sono le DTA. E secondo quello che chiede a Padoan Quagliariello, sarebbero state bloccate fino a quando? Fino a febbraio 2017. E che cosa succede? Chiede Augello a Padoan. È cambiato il governo? Spiega Padoan. Cioè vuole dire, quando Renzi è uscito da Palazzo Chigi, l'Unicredit ha avuto queste detrazioni che voleva. E anche questo è retroscena di quello che è accaduto su Etruria? Lo scopriremo domani. Allora, invece, per parlare ancora di questa vicenda sul Corriere della Sera, c'è una lunga ricostruzione di Fiorenza Sarzanini, il colloquio di Boschi in Via Nazionale mentre gli ispettori indagavano su Arezzo e gli incontri con Panetta. Oggi Visco dovrà chiarire. E poi ovviamente anche qui stiamo parlando di pagina 3 del Corriere della Sera, la la notizia della precisazione con cui Padoan dice non ho autorizzato nessuno a parlare. Su questo è doveroso dare la risposta di uno dei due ministri, Del Rio, che parla con un colloquio retroscena di Lorenzo Salvia e dice: attivarmi era un mio dovere. La sorpresa e il fastidio di Del Rio, il ministro delle parole di Padoan, io sono senza conflitti di interessi. E poi anche la replica del Nazareno, cioè di Renzi, affidata a Maria Teresa Meli: per Renzi non è un attacco quello di Padoan, ho sentito Piercarlo, abbiamo già chiarito tutti. La sottosegretaria, cioè la Boschi, è l'opposizione che vuole regolare i conti con me, cioè sono vittima di un attacco dell'opposizione. E poi c'è anche Orfini gioca d'attacco in previsione delle prossime audizioni e spiega: se si vuole sentire a Boschi come chiedono le opposizioni, allora si convochi Draghi, che peraltro il Movimento 5 Stelle ha chiesto di ascoltare. Se si vuole rifare il calendario, lo si rifaccia per tutto. Quindi è complessa la materia delle banche, ma credo di avervi dato sia le tesi, le antitesi, che le accuse e le risposte difensive. Mattino. Ancora due notizie importanti. Vi dicevo, il retroscena della Stampa va preso con le pinze, non perché non ci si fidi di un collega che lo firma, però perché ovviamente è una fonte, non è direttamente Di Maio, ma il retroscena è importante e quindi andrebbe citato. Svolta a 5 Stelle per il governo, patto con il PD purché non ci sia Renzi. I grillini pronti a trattare, come non fecero nel 2013 con Bersani, sia con un PD derenzizzato, diciamo così, questo racconta Ilario Lombardo sulla Stampa, sia con il partito di Grasso. Nello staff di Di Maio è stato letto con molta attenzione un articolo della Stampa di venerdì scorso che raccontava dell'incubo di Berlusconi di vedere realizzarsi un'intesa post voto fra 5 Stelle e PD. Allora, questo ve lo devo dare insieme al retroscena di Fabio Martini, che è sotto, che riguarda il PD. Idem l'ipotesi di cambio leadership, sarà derby fra Minniti e Del Rio. Quando, in che caso, se il partito raccoglie meno del 25%, il segretario rischia di saltare. Nasce invece a destra, e ve lo devo dire, la cosiddetta quarta gamba, si chiama Italia delle Libertà, unisce i laici del centrodestra. Sul Corriere della Sera, a pagina 8, si spiega come e perché, da Fitto a Quagliariello, da Saverio Romano a Flavio Tosi, una nuova gamba che, come sapete, pesa molto, perché con il Rosatellum tutte queste cose portano voti. Allora, l'ultima notazione, una polemica che si trascina da giorni: l'Austria che vuole dare il passaporto al Sud Tirolo. Sul Corriere, a pagina 12, come, quando, perché dal 2018, dopo la vittoria della destra a Vienna, c'è questa idea. Ovviamente è una cosa che influisce molto sul nostro paese, ci sono battute, qui una ci è arrivata ora, allora datelo anche ai lombardi il passaporto austriaco. Non è male. Cambio passo e andiamo con Gordon. I più di questi laureati di Howard non valgono un cazzo. Serve gente povera, furba e affamata, senza sentimenti. A volte vinci, a volte perdi, ma continui a combattere. E se vuoi un amico, prendi un cane. Eh sì, caro Gordon, se vuoi un amico, prendi un cane. Allora, vi segnalo questa notizia che mi ha colpito moltissimo e sicuramente farà discutere. Ce la dà la Stampa, e la storia della crisi della Borsalino. L'azienda però è in un momento di commesse, di fatturato, di buoni incassi, e il tribunale fa fallire Borsalino, la più famosa casa dei cappelli che esiste in Italia, da Humphrey Bogart, da Napoleone III, passando per Fred Astaire, per Winston Churchill e altri. Il Borsalino era, a partire da Casablanca, il marchio di fabbrica di un'idea di stile, Delon e Belmondo, vi ricordate quello di Belmondo con la fascia tigrata, stupendo. Giuseppe Bottero e Piero Bottino lo raccontano a pagina 14, la storia non basta e non bastano neppure le promesse di prospettive di rilancio, il fascino di un marchio che è finito sulla testa dei grandi della terra, Pancho Villa, Ernest Hemingway, Gabriele D'Annunzio. Borsalino è fallita e adesso i 134 dipendenti sono qui nel gelo del pomeriggio con le sciarpe e i piumini di fronte al palazzone di Spinetta Marengo. dove prendono forma i cappelli più famosi d'Italia. La fabbrica ha fatto crack, lo scrivono i giudici che hanno respinto il concordato, e le parole dei sindacati probabilmente non serviranno a niente, almeno per qualche mese. Allora ricordiamo, fallimento finanziario, non commerciale. Fa da specchio questa notizia all'ultimo aggiornamento sulla saga della Melegatti. Ieri eravamo ottimisti, oggi la cronaca di Andrea Zambenedetti da San Giovanni Lupatoto, provincia di Verona, sede della fabbrica, ci dice che servono le colombe per evitare il crack. I dipendenti ci credono, ma restano solo 60 giorni per far ripartire l'azienda, che ha 22,5 milioni di euro di debiti. Allora, tante cose da raccontare sul Sole, e si saluta questo evento. La prima assemblea con il tesoro azionista per Monte dei Paschi di Siena, la banca torna di Stato, Stefano Bariatti nominato alla presidenza. Allora, via al nuovo Monte Paschi di Stato, non l'ho trovato con questo rilievo sugli altri giornali, ma è un avvenimento importantissimo ovviamente, e ce lo racconta Gerardo Graziola, scusate per la tosse, sulla pagina 3 del Sole 24 Ore, ed è una svolta. Una donna alla presidenza del Monte dei Paschi, una prima volta per Siena, con l'elezione di Stefania Bariatti, già in consiglio da oltre 2 anni, scelta domenica sera dal ministro dell'economia Padoan, dopo il passo indietro del presidente uscente e candidato in pectore per un nuovo mandato Alessandro Falciai. È questa la storia della banca più antica d'Europa, e questa è la storia che ora ricomincia con un nuovo corso e con un risanamento. E vi dicevo, sempre dal Sole, è importante la vicenda della web tax più leggera. Dalla tassazione online, escluso l'e-commerce, aliquota dal 6 al 3%. E la manovra, ancora sono gli ultimi esiti della manovra, pagina 5, Marco Mobili e Marco Rogari, gli analisti più attenti del Sole sulle materie, diciamo, di questa manovra, raccontano che cosa sta accadendo, e quindi c'è il solito schemino Sole in cui trovate tutto, ma soprattutto trovate le notizie sulla web tax. E infine la nota di Lina Palmerini che vi avevo annunciato: il Colle guarda il voto, basta risse, e prosegue dalla prima a pagina 2 e spiega che il Quirinale, con gli auguri ad alte cariche, sta anche, come dire, diffondendo la sua moral suasion con un obiettivo: rasserenare il clima, allontanare l'idea che esista un rischio Italia nella prossima scadenza elettorale. E in effetti, scrive la Palmarini, anche quel messaggio dato venerdì ai rappresentanti di quel mondo internazionale potenzialmente pronto a rimettere l'Italia fra i paesi a rischio, voleva essere quello di togliere e spegnere ogni allarmismo. Serve ovviamente la posizione Quirinale per capire quello che sta accadendo, e adesso dobbiamo andare ovviamente alla mitragliata. Allora, Lori del Santo vuole diventare nonna. Qua ci sono due colonne sonore, a 59 anni. Marco Cucolo, Libero, a pagina 26, questo annuncio veramente scioccante. Lori, ma acconsenti di dire che a 59 anni forse non è la cosa migliore. Libero, Melania Rizzoli combatte l'imbarbarimento della lingua del web. È godibile questo articolo, in cui elenca tutte le parole tremende che nascono dall'inglese sporco della rete: twittare, linkare, taggare, downloadare, bisogna cancellarle. E Casarza Ligure, una casalinga di 58 anni, accusata, pensate, di vilipendio delle forze armate. Che cosa aveva fatto? La Verità, pagina 23, aveva taggato sulla sua pagina una barzelletta sui carabinieri.